Buonasera, possiamo iniziare la conferenza che questa sera, e con questa sera meglio dire, chiude il Novembre Filosofico, che è questa iniziativa di rassegna filmica con commento ad alcuni film tematici e collegati poi a una conferenza serale che nel novembre di quest'anno ha avuto come tema la felicità. E do il benvenuto sin da ora alla dottoressa Ilaria Capua e al professor Telmo Pievani, e li ringrazio sin da ora per intervenire stasera sul tema felicità e scienza. Entrambi i nostri ospiti sono studiosi di rilievo, conosciuti in ambienti di ricerca internazionali. L'una, la dottoressa Capua, nel campo della virologia, e l'altro, il professor Telmo Pievani, nel campo della epistemologia della biologia evolutiva. Sono certo che le vostre relazioni apporteranno nuovi stimoli alla nostra riflessione. E desidero anche ricordare che i commenti al film pomeridiano e le conferenze serali anche delle precedenti serate sono disponibili nel sito dell'MPX, del Multisala Pio X, come file audio. Così come è anche disponibile l'intervento di Eugenio Borgna, che il 10 novembre ci aveva inviato, non potendo essere lui presente. Ringrazio anche quanti si sono resi disponibili a compilare il questionario, che sicuramente ci servirà per migliorare la proposta che andremo ideando e realizzando nei prossimi anni. Desidero anche proporvi un ringraziamento del tutto particolare al professor Umberto Curi, che sembra quasi essersi nascosto in galleria. Lo ringrazio per la cura, per il supporto che dall'origine di questa iniziativa ha sempre profuso per una promozione culturale e di idee per la città di Padova. E prendendo spunto dall'apertura del film che qualcuno di voi ha visto questo pomeriggio, Her, nella quale Theodore era impegnato a scrivere una lettera di auguri e di manifestazione di affetto da parte di un uomo nei confronti della propria donna in occasione del proprio 50° di matrimonio, desidero porgere le felicitazioni al professor Umberto Curi e alla signora Rosanna, che in questi giorni festeggiano il loro 50° di matrimonio. Umberto Curi è arrossito, per cui credo sia un segno non solo di stima ma anche di affetto da parte di tutta la sala per quanto fa e quanto fate. Grazie. Il tema di questa sera, come menzionavo poco fa, è felicità e scienza. E questi due termini, felicità da una parte e scienza dall'altra, quando sono combinati insieme, sembrano quasi evocare una tensione esistenziale e direi anche socioculturale piuttosto interessante. Da una parte, infatti, viene da dire che la sfera della felicità sia circoscritta all'ambito dell'individuo. L'anelito, l'aspirazione alla felicità e al suo soddisfacimento è esperienza personale, individuale. Tutto ciò che circonda l'individuo, che sia l'ambiente fisico, che sia quello sociale, quello culturale, può per alcuni aspetti favorire o sfavorire la felicità di qualcuno, ma difficilmente, se non quasi impossibilmente, la può determinare o addirittura garantire. In altre parole, non si dà un algoritmo per raggiungere la felicità. Ciascuno o ciascuna è felice a modo suo. D'altro canto, il sapere scientifico e l'attività di ricerca scientifica, per loro proprio statuto, hanno invece a che fare con l'universale, ovvero, permettetemi di andare per sommi capi, con il rinvenimento di regolarità tra fenomeni del mondo naturale che possono essere formalizzate in leggi che descrivano esaustivamente, nella migliore delle ipotesi, l'intera classe dei fenomeni presi in esame. L'universalità descrittiva, e questo che ora introduco è il tratto particolarmente significativo, permette anche di elaborare previsioni circa il comportamento futuro degli oggetti naturali cui le leggi si applicano. E con la predizione arriva anche l'applicabilità al dominio della tecnologia presa in tutte le sue manifestazioni. Senza dubbio, il progresso scientifico e tecnologico è un cavallo vincente e sempre di più diviene destinatario di attese e di speranze collettive. Vi è una fiducia sociale, direi quasi culturale, nella scienza, nella sua universalità, nella sua predittività e nella sua applicabilità. Allora ci chiediamo, perché non appoggiarci al metodo scientifico anche per trattare della felicità? Qualcuno questa strada l'ha già intrapresa. E a titolo di esempio cito un articolo apparso in una rivista, PNAS, il 19 agosto scorso, che era intitolato «Un modello computazionale e neuronale per il benessere soggettivo momentaneo». Da questo studio emerge che in situazioni di scelta che comportano un certo rischio, il livello di felicità esperita si accresce in maniera proporzionale all'aumentare del divario tra l'aspettativa formata sulla base del vissuto pregresso di una persona e la ricompensa realmente ottenuta a seguito della scelta compiuta. L'andamento numerico, e quindi quantitativo, tra esperienza pregressa, attesa e ricompensa è stato formalizzato e reso in una equazione matematica. La sorpresa è stata che tale equazione ha ricevuto validazione e conferma dalle risposte ottenute attraverso la somministrazione di un test ad un campione di oltre 18.000 persone. L'equazione è in grado di prevedere la felicità momentanea. Così è uscita la notizia per la BBC. Al modello matematico poi erano associati dei dati di neuroimmagine che evidenziavano come in concomitanza di tali momenti di felicità esperita vi fosse un aumento di attività nelle zone cerebrali dello striato e dell'insula anteriore. Sono certo che molti, e me compreso, avranno pensato che fra qualche anno e con un po' di sforzo da parte degli scienziati potremmo sapere qualche cosa di più sui pattern neuronali che sono attivi in situazioni di felicità e magari che si sia in grado di ancorare quegli stati di felicità non solo ad una precisa attività neuronale, ma anche magari a qualche precisa combinazione genetica. E chissà che non si possa anche rinvenire alcune tecniche di intervento bioingegneristico per garantirci dei cervelli in grado di assicurare uno stato permanente di felicità, quasi a dire felicità per tutti. Ma, e qui concludo, siamo disposti a convincerci ed accettare, perché ce lo dice la scienza, che la felicità sia uno scarto tra aspettativa e ricompensa? Forse siamo ancora tentati di ritenere che la felicità esperita sia qualche cosa di più e che il concetto di felicità abbia il diritto di essere vago, di essere sfumato, ai noi forse resistente ad essere scientificamente trattato. La parola al professor Pievani. E mi metti nei guai però in questo modo. Beh, buonasera a tutti, grazie per questo invito e per questo Compito difficilissimo di aprire subito dopo Nicola la discussione, perché naturalmente scienza e felicità è un argomento amplissimo e molto difficile da trattare, soprattutto per un filosofo della scienza o in particolare per un povero filosofo della scienza che si occupa di biologia evoluzionistica. Abbiamo deciso che io come filosofo parlerò di scienza e Ilaria come scienziata parlerà di amore questa sera. Quindi sì. Questo è il nostro patto. E allora io in 30 minuti vorrei proporvi una linea argomentativa in tre passaggi, spero chiari, semplici per voi. E farò riferimento, mi scuso per chi non dovesse averlo visto, ma insomma cercherò di fare riferimento alle storie, a ricostruire le storie, al film che abbiamo appena visto alle 18, mi ha colpito molto, non l'avevo visto, questo film Her, che è particolarmente toccante, molto molto bello, molto interessante. Di lui che si innamora di una voce, di un sistema operativo. Nicola adesso diceva, e io prendo le mosse proprio da quello che ora lui affermava, sul quale io concordo, questa ricerca su PNAS, così come qualsiasi ricerca scientifica, deve partire da una definizione che possa essere trattabile, e quindi se decidiamo di scrivere un paper scientifico sulla felicità, naturalmente ne diamo prima una definizione e poi andiamo a cercare qualcosa che corrisponda a quella definizione. Quindi se troviamo una equazione oppure se individuiamo una mappa neurale che corrisponde a un certo tipo di esperienza, è ben difficile sostenere di avere capito che cos'è scientificamente la felicità. Ho semplicemente trovato una corrispondenza tra come l'ho definita all'inizio e quello che poi ho trovato in un esperimento che io stesso ho costruito a partire da un'interpretazione. E può darsi che così facendo scopri qualcosa di molto importante, di molto interessante. Difficilmente però io credo tu puoi scoprire che cos'è la felicità e come la puoi trattare dal punto di vista scientifico. Voi sapete, noi siamo eredi di una tradizione importante che impregna i nostri concetti, l'etimologia delle nostre parole. Umberto Curi oggi ha fatto un commento al film molto bello che partiva proprio da questo. Siamo impregnati dell'eredità della cultura greca. Ora, nella cultura greca, in generale dell'antichità, noi sappiamo che il tema della felicità era strettamente legato al tema del bene. La ricerca del bene, in molte delle grandi costruzioni intellettuali dell'antichità corrispondeva a una ricerca, a un raggiungimento mai definitivo, ma insomma una tendenza al raggiungimento della felicità. Però gli antichi sapevano bene che c'erano due accezioni fondamentali di felicità, molto diverse l'una dall'altra, ed è quella da cui prendo le mosse, che poi hanno anche una corrispondenza terminologica precisa. La felicità nel senso di possedere dei beni, di avere dei beni, di essere ricco, di avere tante cose, è quella che in latino diventa felix. Una regione era felix per i latini perché era abbondante, era generosa, forniva di tanti beni. E l'altra invece era la felicità di chi è non felix ma beatus, che non ha necessariamente una accezione religiosa, anche se poi la prenderà, ma che è il beato, non è quello felice perché ha delle cose, ma è beato perché ha invece raggiunto uno stato d'animo interiore che lo rende felice. E quindi è, come dire, una qualità intrinseca dell'individuo, non dipende da ciò che tu hai, da ciò che tu possiedi, ma da ciò che tu sei. E allora qui le declinazioni di questa idea molto bella, molto importante, vanno dalla virtù di Socrate al giusto mezzo, che poi è un'altra forma della virtù in Aristotele, vanno dall'edonismo, quindi l'idea che in fondo la felicità corrisponda all'imparare a godere dei piaceri, ma nello stesso tempo nel non esserne schiavi. Così come per molte costruzioni filosofiche dell'antichità, la felicità corrispondeva a una imperturbabilità, cioè imparare a resistere ai desideri facili. E quindi vediamo che nel concetto di felicità c'è una polisemia, cioè l'idea di indipendenza, l'idea di non essere schiavo di quello che ti succede, l'idea di dominare i tuoi desideri, ma nello stesso tempo di godere di quello che ti viene offerto dalla vita. Tutto questo nella modernità poi è diventato l'utilitarismo per certi aspetti, quindi nel Settecento l'idea che io trovo molto bella ma anche molto ambiziosa di mettere addirittura nelle Costituzioni il diritto alla felicità. E quindi noi dobbiamo lavorare tutti insieme, la Costituzione deve essere fatta per garantire che le persone siano il più possibile felici e che venga date loro la maggiore possibilità di raggiungere una condizione di felicità. Ma come diceva Nicola prima, Bentham, per esempio, che è colui che ha teorizzato questo, però ricordava sempre che il bene individuale è tale, la felicità individuale è tale, se poi si traduce in una felicità collettiva, in un bene sociale, in un bene relazionale. Non può essere una felicità solipsistica, individuale, non può essere solo quantitativa. Allora, posto questo scenario di fondo filosofico del dibattito eterno sul concetto di felicità, che cosa può la scienza, come può irrompere la scienza come un elefante in una cristalleria in un dibattito di questo genere? Secondo me oggi lo può fare in tre modi diversi, sono queste le tre categorie che vorrei proporvi e che mi sono venute in mente vedendo proprio il film poco fa. Perché sono tutte e tre presenti nel film e sono tre figure filosofiche, scientifiche, classiche. Le racconto in ordine, come dire, di crescente di difficoltà, un grado zero del rapporto tra scienza e felicità possibile, un grado intermedio e un grado molto difficile, sul quale poi mi soffermerò per qualche minuto perché è quello che secondo me viene descritto molto bene in questo film. Allora, la prima figura del rapporto tra scienza e felicità che vi propongo è quella della protesi. Perché la protesi? Perché il film è un film che parla di protesi, no? Diceva molto bene Umberto Curi, no? Che cos'è quello? Quel sistema operativo è questa voce bellissima che ho scoperto essere la Scarlett Johansson nel film, che recita meravigliosamente solo con la voce, che si innamora del suo possessore, il quale si innamora di lei, c'è questo gioco degli specchi, questo gioco narcisistico. Samantha, che questa voce, è una protesi. È una protesi perché lui non riesce ad affrontare le emozioni reali come gli rinfaccia la moglie e allora si rifugia in un mondo dove lui può allungare se stesso senza limiti, può proiettare se stesso senza limiti. E quindi c'è una percezione di insufficienza, noi non siamo capaci di fare qualcosa e cerchiamo una protesi, cerchiamo un innesto, cerchiamo di aumentare le nostre potenzialità. Questi sono tutti temi oggi molto presenti nella bioetica, delle biotecnologie in particolare. E in questo caso però diciamo è un grado zero del rapporto tra scienza e felicità, perché questo, come dire, è il lato, se volete, applicativo, principalmente tecnologico, della scienza. E quindi questa idea per cui noi oggi siamo in una nicchia ecologica completamente nuova, perché siamo in una nicchia dove la tecnologia permea le nostre vite, le impregna, ci trasforma addirittura dal punto di vista biologico. Quindi non siamo più noi soltanto che ci dobbiamo adattare a un ambiente, ma siamo noi che attraverso le tecnologie modifichiamo quell'ambiente che poi a sua volta modifica noi. E quindi questo è diventato un processo molto più complicato, perché è un processo ricorsivo, no? Un processo in due direzioni. Tant'è vero, voglio dire, che mi ha colpito molto un episodio che è successo qualche anno fa. Si è discusso a lungo se nel fare la maratona di New York era lecito o meno portarsi dietro avere le cuffie con la musica. Perché noi sappiamo da ricerche tipo quelle citate prima sulle riviste scientifiche che ascoltare la musica che ci piace di più, come anche quella che nel film Samantha fa ascoltare al suo partner reale, scatena delle reazioni fisiologiche di forte potenziamento. Allora si è detto, ma quando uno fa la maratona gli permettiamo di tenersi le cuffie con la musica o è una forma sofisticata di gioco scorretto, di doping, potremmo dire, un doping musicale che scatena reazioni positive e rafforza, quindi dà più chance a chi ce l'ha o a chi non ce l'ha. Eppure è semplicemente un paio di cuffie con un walkie-talk, uno strumento per sentire musica mentre si corre, come facciamo tutti quanti. E qualcuno ha detto, beh, questo è un esempio di come oggi noi siamo impregnati di protesi e il confine tra ciò che è umano, nel senso di naturalmente umano, e ciò che è umano e aiutato artificialmente è diventato impossibile da tracciare, impossibile da definire. Questa è la prima figura, banale, grado zero, è quella che subito viene in mente, quindi la scienza ci permette di essere un pochino più felici perché ci fornisce degli strumenti, ci fornisce delle protesi, dove noi non arriviamo a raggiungere uno stato di soddisfazione, ci prendiamo uno strumento che ci permette di raggiungerlo. Poi c'è un secondo grado però di questa dinamica, secondo me, che è quello invece che riguarda il fatto che non soltanto la tecnica, Ma la scienza, la ricerca scientifica, magari di questo Ilaria forse parlerà dopo, perché quello è il mestiere che lei fa, ci permette di stare meglio, ci fa letteralmente stare meglio, ci fa stare meglio dal punto di vista fisico, fisiologico, dal punto di vista quantitativo che citavo prima. Sono usciti libri negli ultimi mesi, negli ultimi anni, che hanno fatto molto discutere, non so, Steven Pinker ne ha appena scritto uno. Pinker dice, la scienza è oggi il grande driver della nostra felicità. Perché, dice Pinker, perché guardate in che mondo viviamo in un mondo dove l'aspettativa di vita non è mai stata così lunga, così ottimistica, viviamo in un mondo con molte meno guerre, se facciamo un calcolo quantitativo o statistico che fa lui, che propone nel libro, viviamo in un mondo dove sempre statisticamente c'è molto più igiene, insomma la scienza ci ha dato la possibilità di sconfiggere terribili malattie, di farci vivere di più e di farci vivere meglio, ci dà dei palliativi, ci dà dei lenitivi, ci fa guarire molto più di prima. Quante volte abbiamo sentito questo argomento, che è ovviamente un argomento che ha dei molti elementi a suo favore, ed è un fatto oggettivo tutto questo, come si viveva quando Darwin scriveva L'origine delle specie, o Dickens scriveva i suoi libri a metà dell'Ottocento, nella pur sviluppata Inghilterra vittoriana di quell'epoca, era un modo di vivere estremamente più povero, più misero, più difficile, più gramo, proprio dal punto di vista fisico, fisiologico, di come viviamo oggi. Questa è un'altra banalità che possiamo mettere nel dibattito, ma che ha occupato libri e libri di studiosi come Pinker, che sono dei grandi ottimisti. Secondo loro la scienza, lo pensano anche Richard Dawkins, lo pensano tanti altri, la scienza di per sé basterà per renderci più felici, più democratici, più avanzati, soprattutto più democratici. Io su questo ho qualche dubbio, ma i filosofi della scienza devono insinuare il dubbio per mestiere, perché forse non è così semplice la storia. E sappiamo, per esempio, vi faccio solo un esempio, che si può fare scienza, si può fare buona scienza, buona tecnologia anche in paesi che democratici non sono per niente e dove forse la felicità non è poi così diffusa come noi vorremmo che fosse. Quindi non è così immediato il rapporto tra scienza e felicità in questo senso. Quindi, come vedete, tutti questi piani sono ambivalenti, ambigui. Non vi dico che sono giusti o sbagliati, vi dico che ciascuno di questi è un modo per interpretare questo tema del rapporto tra scienza e felicità. Poi c'è il terzo livello, se quello scuoglio voglio, la terza figura che vi propongo, che è quella a cui faceva riferimento Nicola nella sua introduzione. Fin qua abbiamo discusso di caratteristiche, se volete, esteriori, materiali, strumenti, protesi, chip che ci innestiamo, forse ci innesteremo un giorno nel cervello, confini tra umano e non umano che rendono sempre più permeabili. Un film che è un antenato del film che abbiamo visto oggi pomeriggio, secondo me, è Strange Days, che uscì proprio a cavallo nei primi settimane, nei primi mesi del nuovo millennio, e immaginava in una New York del millennio queste modalità di comunicazione tra cervello e cervello, per cui due individui potevano provare, un individuo poteva con questo sistema provare direttamente le esperienze corporee, sensoriali e emozionali di un altro individuo, e succedevano cose molto interessanti, perché a quel punto i cervelli entravano fisicamente in rete attraverso questa interfaccia cyborg. Quindi, fin qua, ok, questo un po' fa parte anche del nostro immaginario fantascientifico, però io voglio prendere per la coda il tema difficile che poneva Nicola prima, cioè, e questa è la terza figura, ma la scienza può, la ricerca scientifica e tecnologica può, come dire, contribuire a far crescere quella felicità nel senso in cui ce l'hanno raccontata e spiegata i greci che citavo all'inizio, cioè non soltanto il possedere, non soltanto il soddisfacimento fisico, non soltanto l'estensione della propria corporeità, ma la propria vita interiore. Ci rende più felici da quel punto di vista lì, la ricerca scientifica. Ora, per chi la fa probabilmente sì, adesso io mi pongo però dal punto di vista invece di chi la osserva la scienza, di chi la subisce anche, di chi l'ascolta, la partecipa, di chi la vive, di chi si appassiona alla ricerca scientifica. Qui voglio citare una ricerca che sta per uscire adesso, che non sia ancora uscita. Voi sapete, in Italia c'è un osservatorio che si chiama Observa Science in Society, e lavorano molto seriamente, sono dei sociologi che da 10 anni a questa parte, quindi è il primo caso in Italia di una survey sociologica che va avanti per 10 anni, quindi ormai con dei dati molto robusti, ogni mese, ogni settimana, ogni giorno monitora tutto quello che esce in Italia su argomenti scientifici e tecnologici e poi periodicamente fa delle indagini a tappeto, fatte molto seriamente con migliaia di interviste telefoniche e così via, a un campione molto eterogeneo, quindi persone di genere diverso, di classi sociali diversi, di titolo di studio diverso, di tutte le regioni italiane. E l'oggetto è capire qual è la percezione pubblica della scienza in Italia, come si modifica nel corso del tempo. E vabbè, si scoprono tantissime cose interessanti che tra l'altro sfatano molti miti che circolano spesso sui giornali, sull'Italia che è un paese tendenzialmente antiscientifico. In realtà, se andate a vedere bene qual è l'umore profondo degli italiani quando discutono di scienza, si scoprono cose interessanti. Per esempio che mediamente la fiducia che hanno gli italiani nella figura dello scienziato è abbastanza buona, è a livello degli altri grandi paesi europei. E quando chiedi loro, cioè chiedi agli italiani sostanzialmente, a questi campioni, che cosa ti fa paura della scienza, in quest'ultima survey che hanno fatto, ma questo è un tema presente un po' in tutte quelle da 10 anni a questa parte, i temi che vengono fuori sono due. Una è l'ambivalenza del potere che la scienza ti dà, cioè la risposta è questa, la paura qual è? Che con questo grande potere che ti dà la scienza e la tecnologia, tu possa usarlo in modo ambivalente, cioè per cose buone ma anche per finalità molto pericolose, molto, molto cattive. E la seconda preoccupazione, che è molto forte negli italiani, è il rapporto tra scienza e business. Tutti rispondono, quello che mi preoccupa è il fatto che gli scienziati non siano indipendenti, che gli scienziati facciano quello che stanno facendo in realtà perché devono difendere, perché devono corrispondere a degli interessi di parte, a degli interessi privati. Queste sono le due risposte, che le altre poi sono minoranze, sono percentuali bassissime. Queste sono le due grandi preoccupazioni che hanno gli italiani quando si parla di scienza. Secondo me sono due risposte interessanti, perché tra l'altro una cosa curiosa che emerge, viene confermata di nuovo anche nell'ultima indagine, è che se tu fai un incrocio tra il titolo di studio di chi risponde e il grado di attenzione critica nei confronti della scienza, più le persone hanno un titolo di studio elevato, più sono critiche nei confronti della scienza e non viceversa. Questo secondo me non è proprio banale. Non è che l'essere critici nella scienza derivi dal non conoscerla. Chi la conosce di più è anche più vigile, più attento e più critico. Quindi, insomma, gli italiani rispondono in un modo abbastanza maturo e in linea con altre comunità nazionali dove si fanno queste ricerche da molti più anni rispetto a come si fanno da noi. Quindi l'ambivalenza del potere della scienza e questa inquietudine sul futuro, sui rapporti con l'economia capitalistica, neoliberista, potremmo dire, della scienza, che quindi soggiace a questi interessi, e poi il potere fortissimo che sta acquisendo attraverso le sue applicazioni. Ora, questo non è poi tutto, del tutto sbagliato, è interessante. Nel film, così vengo al film, questo tema secondo me è affrontato in un modo molto originale, molto, molto particolare, perché Umberto Curi diceva nel suo commento, io non ci avevo pensato, però è vero, sono d'accordo, che è una favola questo film, no? questa storia di questo innamoramento per un po' corrisposto, ma poi è una storia d'amore che va a finire male. È una favola perché c'è un messaggio finale, questo è vero, e c'è una narrazione che scorre e c'è una tendenza, come dire, un tentativo di far immedesimare chi ti sta ascoltando in quella storia, in portarti dentro quella storia. Allora, secondo me, quello che in quel film racconta, e che anche, secondo me, gli italiani raccontano quando ti dicono quali sono le loro inquietudini nei confronti della scienza, e quindi perché la scienza, torno al mio tema, alla mia figura, quando le domandi alla scienza, ma che cosa puoi fare per la mia vita interiore, la risposta è molto più difficile che non le due precedenti, è che noi, e qui affronto un tema generale, ma la butto lì come ipotesi, come provocazione, noi quando discutiamo di scienza e dei rapporti tra l'individuo e l'applicazione della scienza, l'abbiamo sempre fatto finora utilizzando quella che Propp, visto che Umberto la citava prima, chiama la favola dell'eroe. La favola dell'eroe è una sottocategoria della grande struttura della fiaba. La favola dell'eroe è una favola in cui c'è un individuo che deve affrontare una serie di prove, e sono molto difficili, ed è quasi sul punto di cedere, non ce la fa, e poi però attraverso questa sequenza di prove molto difficili viene temprato sempre di più e alla fine compie il suo percorso di iniziazione, e quindi c'è il messaggio finale che è il raggiungimento dell'età adulta. Allora, la mia idea è questa, che questa oggi, quello che noi percepiamo è che questa favola dell'eroe non regge più, questa favola dell'eroe è entrata in crisi, non abbiamo più grandi narrazioni, non abbiamo più ideologie, non abbiamo più grandi contesti, anzi ce li abbiamo, sono un po' mortiferi. Io sono molto d'accordo con Domenico Quirico, quel giornalista che è stato rapito in Siria, ha detto: io lì ho capito che è rimasta un'unica grande ideologia, un unico grande racconto, un'unica grande narrazione ideologica, è quella di questi fanatici che tagliano le teste. Questa è la nuova forma di totalitarismo che dà un senso a chi appartiene a questa comunità. Non ne abbiamo più, a parte queste forme criminali, non abbiamo più grandi narrazioni che ci hanno fatto male, naturalmente ci hanno illuso, ma ci hanno anche dato un senso alla nostra vita, e la scienza rientra in questa frammentazione del senso della nostra vita, secondo me. Ci sono dei filosofi, miei colleghi, io non condivido molto le loro idee, che quando vedono questi film o film tipo Strange Days che vi citavo prima, parlano di post-umano, dicono che la scienza già adesso e soprattutto nei prossimi decenni ci porterà in una condizione post-umana, smetteremo di essere umani, diventeremo un'altra cosa. E in fondo il protagonista quasi ci crede a un certo punto di questo film, di diventare un'altra cosa, di poter avere una storia d'amore, di poter fare sesso con la voce di Samantha, e è convinto di poter diventare post-umano, e poi si accorge che è un'illusione, si accorge che Samantha è un'altra cosa, che Samantha ha un rapporto con altri 6.000 utenti, e che quindi non funziona, non è proprio, non è sua, non può avere una relazione come noi l'abbiamo con un altro essere umano. Allora, il post-umano a me non convince per niente, perché è un altro ennesimo tentativo di recuperare una grande narrazione. Se leggete i libri di Kurzweil sul post-umano, lui vi dice che nel 2050 noi impareremo a entrare a mettere in relazione direttamente i nostri cervelli, ci sta spiegando che cosa noi dovremo fare nel 2050. Vedete che abbiamo sempre questa dannata tentazione di voler addomesticare il futuro, no? Di voler prevedere che cosa succederà nel 2050. Io invece preferisco pensare che quello che succederà nel 2050 è che saremo diversamente umani, ma continueremo ad essere umani, lo saremo in un modo diverso da come lo siamo adesso, ma non saremo post qualcosa, non saremo post umani, saremo altri umani e altri modi di essere umani. In questo film, secondo me, c'è, io do un'interpretazione diversa da quella che ha dato Umberto, ma complementare alla sua, è un bellissimo racconto di questa perdita di senso, di questa perdita di identità. C'è un punto nel film, me lo sono appuntato, dove Samantha stessa, la voce del computer, dice: Theodore sta ricostruendo la storia del dolore della sua separazione dalla moglie, e Samantha, per consolarlo, dice: sì, ma guarda che il passato è soltanto una storia che ci raccontiamo, è soltanto un'interpretazione, è una favola anche quella, non c'è più distinzione tra il passato come realtà oggettiva che tu hai vissuto e quello che tu ti stai raccontando, il senso che tu gli stai dando. Quindi si sfrange, si perde questa entità. L'amico di Theodore alla metà del film gli dice: eh sì, tu scrivi così bene le tue lettere, ti immedesimi così tanto nelle tue lettere, perché? Perché dentro di te tu sei in parte maschio e in parte femmina, sei donna, e sei donna proprio nel profondo di te quando scrivi queste lettere. Theodore rimane un po' sconcertato, gli dice grazie, se ne va via un po' sorpreso. Beh, anche quello, no? L'idea che il maschio non esiste come maschio, ma esiste come sfaccettatura, come un gradiente di mascolinità, di femminilità mischiate insieme. E poi c'è il vero messaggio di fondo del film, secondo me, che è questa, che uno potrebbe dire, e qua però è una mia interpretazione questa, però io lo vedo così, perché lo penso anche per altre questioni legate alla rete, per esempio. Uno dice: vabbè, lui cosa fa alla fine? Scopre che non si può fare l'amore, non ci si può innamorare con una voce, con un sistema operativo. E quindi incontra la dura realtà. E quindi possiamo interpretare questo film con l'ennesimo esempio di una dialettica tra ciò che è reale, le tue emozioni, come gli rinfaccia la moglie quando lo incontra per firmare il divorzio, e quello che non è la realtà, che è quella voce che non è una donna, ma è una voce di donna. Secondo me invece questi film, e in generale quello che sta succedendo, e qui è una chiave di lettura interessante questa, ci dice che non è così, secondo me, ma quello che noi scopriamo oggi, che è il virtuale, quello che abbiamo sempre chiamato finora il virtuale, è reale ed è una declinazione nuova, ma tutto sommato nemmeno poi così tanto nuova, del reale. Perché le emozioni, le delusioni che vive quell'uomo interagendo con quella voce sono reali, la sua storia è una storia reale. Ed è vero che Samantha viene chiamata her perché non è un she, non è un soggetto, ma è un oggetto. E infatti lui, tutti entrano in relazione con questa voce e sono consolati da questa voce fa loro compagnia ed è un oggetto che loro pensano di utilizzare. Ma poi che cosa succede? Che questo oggetto evolve, che questo oggetto cambia e che Samantha evolve, tant'è vero che poi prende lei la decisione di lasciare il suo partner e di andare in un altro, in una dimensione non ben specificata, negli interstizi di un infinito non meglio definito che trapela un po' religiosamente alla fine del film. E quindi l'idea, secondo me interessante, è che tu interagisci con un oggetto, ma questa interazione stessa trasforma quell'oggetto, lui comincia a cambiare, evolve e comincia ad avere dei comportamenti che tu non ti aspetti. E questa secondo me è una chiave di lettura molto importante per discutere di tecnologie e di quello che noi stiamo facendo oggi. Noi stiamo cambiando il nostro ambiente che cambia noi, ma questo è un processo, dicevo prima, ricorsivo, ma è anche molto imprevedibile. Noi non possiamo sapere quale sarà il ritorno di questo cambiamento, e questo genera angoscia, ci preoccupa, perché ci fa capire che abbiamo perso il controllo del processo. E allora è interessante nel film, lui sta divorziando, si è separato, concepisce rapporti emotivi e sentimentali come in un supermercato sentimentale, tutto per lui è una cover, questo mi ha colpito molto perché ritorna in molte opere di letteratura adesso, è tutto già una cover, è tutto già visto, è tutta una ripetizione di qualcosa che c'è già stato, non c'è più niente di autentico, è tutto una cover di una cover di una cover, e quindi c'è questo rapporto tra il suo vuoto esistenziale in quel momento e il fatto che si sente potente perché ha trovato Samantha, ha trovato il suo sistema operativo che gli permette di avere l'illusione di poter riprovare di nuovo quelle sensazioni. E come diceva Umberto Curi prima, il narcisismo è una di queste grandi figure, di questa perdita delle grandi narrazioni, questa perdita del senso che viviamo noi oggi, perché io ho scritto qualcosa su questo, sono stato anche criticato perché non sono un entusiasta, sono un fruitore ma non un entusiasta dei social network e delle reti. Nei social network no, perché non ci sono mai entrato. Una volta ci sono entrato, ho cominciato ad avere degli sconosciuti che mi chiedevano se ero loro amico, e questa cosa mi ha inquietato a tal punto che poi con moltissima fatica sono riuscito a uscire, perché entrare è facile, uscire è una cosa abbastanza difficile. E, però secondo me quello che oggi sta succedendo è interessante. Oggi c'è una campagna ministeriale che dice che non dobbiamo insultarci su web, non dobbiamo essere violenti su web, dobbiamo imparare ad avere un codice di comportamento anche su web. Mi ha colpito molto questo, perché in effetti il web fino adesso è una, come dire, un territorio meraviglioso di esplorazione, ci dà grandissime possibilità di relazione, di esplorazione di un mondo nuovo che è il mondo che Samantha a un certo punto decide di vivere, ma è anche un grande gruppo di autocoscienza collettiva, dove ci mettiamo il nostro nickname e siamo convinti di poter dire cose che in faccia a una persona non diremmo mai. Per cui a me capita di leggere cose terrificanti su siti creazionisti contro di me, che io non pensavo nemmeno di essere così cattivo, così brutto, così. E sono tutti nickname, no? Tutti nickname, tu non puoi mai rispondere. Anzi, della verità, una volta mi è capitata una cosa, ve la racconto perché è interessante. È stato messo una mia lettera sul blog di Grillo, ancora prima che Grillo diventasse quello che poi è diventato. Era una cosa, una presentazione di un libro. E nelle giornate successive sono stato letteralmente subissato di lettere, di email, alcune delle quali, diciamo, una buona metà positive, di confedi, diciamo, di adesione a quello che avevo scritto, e una metà di insulti, di ti vengo a prendere, dimmi dove abiti, ma tu come ti permetti di... Cioè, di una violenza verbale terrificante, ed erano tutti nickname. Allora a un certo punto, io pensando di fare lo spavaldo, ho detto: scusa, ma io ho il mio nome e cognome, sto parlando con il mio nome e cognome, tu con un nickname, chi sei? Scusa, presente, dimmi. Ah, guarda. E lui mi ha risposto, non nel social network, ma per messo il nome e il cognome, ha detto, tu dimmi, sai che ti vengo a trovare minacciosamente. Quindi lui si è presentato, in questo caso si è mostrato. Quello è un contesto in cui l'elemento perverso del narcisismo, secondo me, è assolutamente evidente, dove noi proiettiamo quello che pensiamo di non poter, di avere dei limiti nel manifestare di persona, gli occhi negli occhi con gli altri, con i nostri simili. Allora chiudo con queste tre figure e un'ultima idea che è venuta fuori dal film. A un certo punto Samantha, quindi dicevo, evolve, cambia, questo è quello che mi ha colpito nel corso del film, perché il fatto che cambi lui, essere umano, vabbè, ce lo aspettiamo da una favola che vuole poi darci un messaggio finale, ma che sia lei a cambiare interagendo con gli umani è meno semplice. E a un certo punto lei si dice, beh, io adesso sto imparando un sacco di cose da te, dice Samantha, Scarlett Johansson, ma sono davvero consapevole, cioè sto provando veramente io queste emozioni, queste sensazioni, o farà parte anche questo del programma che è stato messo dentro di me? Questa è una domanda molto meno banale di quanto non sembri, è una domanda che potrebbe occupare un'intera lezione di filosofia, cioè quello che io sto provando adesso, di cui penso di essere consapevole, lo sto provando veramente perché è qualcosa di nuovo che sto sperimentando io, o in qualche modo era già incluso dentro il mio software di partenza? Lo sto esplorando perché la storia si fa nel cammino, nell'andare, o era già tutto stato scritto all'inizio? Sono emozioni reali o sono emozioni già previste nel mio software? E il risultato finale qual è? L'interazione tra questi due mondi che si compenetrano l'uno con l'altro, lui che cerca di sfuggire all'impegno, lui che rimane solo, tutto sommato, con le sue voci interiori, per tutta la durata del film, e invece alla fine Samantha che trova la sua strada e se ne va per conto suo. E come Propp insegna, diciamo giustamente Umberto Curi prima, c'è il messaggio finale, no? Perché alla fine c'è l'iniziazione è avvenuta, perché lui finalmente alla fine del film riesce con grande, una faccia molto di una persona che è molto, si è liberata, riesce finalmente a dettare la lettera di scuse reale alla moglie reale, cioè alla persona con la quale realmente aveva avuto una storia e con la quale non si erano capiti, poi si erano divisi, si erano divorziati. Quindi è riuscito a scrivere la lettera a Catherine, sua moglie, e quindi c'è questo messaggio di iniziazione. Però se noi facciamo i conti e vediamo l'ultima scena di lui con la sua amica che guarda nel tramonto a Los Angeles, la percezione è quella che lui esce sconfitto, lui non ha portato a casa niente, è in frantumi. Ha perso sostanzialmente, è un perdente, è un incompiuto, e quindi l'idea secondo me interessante di questo film, al di là dell'aspetto appunto della trama, della favola, è che ci sono due mondi che si incontrano, questi due mondi si trasformano vicendevolmente, evolvono insieme, quindi coevolvono potremmo dire, e paradossalmente, questa è un po' la provocazione, alla fine il mondo cosiddetto virtuale si dimostra molto più reale di quanto non è, evolve, cambia e trova la sua strada, e quindi si compie, trova la felicità, potremmo dire, e lui invece, quello fisico, l'uomo fisico, quello reale, il maschio reale, corteggiato e corteggiatore di questa voce, alla fine si ritrova sconfitto, si ritrova in frantumi, si ritrova spezzato, e l'unica forza che ha è quella di chiedere scusa alla moglie per tutto quello che non è stata capace di dirgli, che non è stata capace di trasmettergli, per tutto quello che ha frainteso delle emozioni reali della moglie che ha perduto. E quindi un piccolo, secondo me, dipinto, un piccolo affresco di una condizione che forse noi oggi sentiamo profondamente, che è quella in cui stiamo vivendo oggi. Grazie. Grazie a Telmo Pievani per questo suo intervento nel quale ha evidenziato la possibilità di una scienza che possa essere protesi quasi di potenziamento umano in vista della felicità, che sia in fondo una sorta di arma per sconfiggere il limite proprio dell'umano, ma che in fondo rimanda ad una dimensione più interiore, che è quella della ricerca di una sorta di beatitudo, di beatitudine, di stato, di felicità, nella quale l'uomo si ritrova alla ricerca di senso, di una narrazione che lo possa contenere, che evita il postumano, ma che nell'interazione con il mondo virtuale, con il mondo della tecnologia, possa coevolvere e rinvenire una propria dimensione di autenticità. Ci sono stati degli accenni nella relazione del professor Pievani che hanno, credo, direttamente a che vedere con il mestiere dello scienziato, che sia quello di sperimentare l'ambivalenza che questo potere ha e anche il soggiacere alcune volte ad alcune logiche di business che condizionano anche la scienza. Alla dottoressa Capua uno spazio per raccontarci come una scienziata intenda felicità e soprattutto, mi sembrava, con una declinazione, una puntata sull'amore. Allora, buonasera. Allora, io nella mia vita ho fatto un sacco di cose, ma una cosa difficile come quella che sto per fare stasera non l'ho fatta mai. Perché, cioè, guardate qua che pasticcio che ho combinato, perché io sono veterinario di formazione, quindi figuratevi un po', faccio il virologo ormai da tanti anni, diciamo che in questo, fra il film che, devo dire, mi ha molto interessato, ma mi ha anche molto confuso, nel senso che il film pone moltissimi interrogativi, mica facili, ai quali rispondere. Poi l'intervento del professor Pievani, che veramente così articolato e complesso e insomma forte dal punto di vista filosofico, io proprio non so cosa dirvi. E con questo ho terminato. No, allora, io vi posso pure raccontare la gioia dello scienziato, che bello scoprire un nuovo virus, che te lo trovi là al microscopio, che sembra un biscotto, e proprio ti riempie il cuore. Volete che vi racconti questo? Vi posso raccontare la gioia di vedere il trionfo interiore che senti quando vedi un tuo collaboratore giovane che porta i risultati di una ricerca che è stata sviluppata nel tuo laboratorio e la porta in America, e poi c'ha tutti gli americani che gli vanno intorno, che vogliono. Se volete vi racconto questo. Vi posso raccontare la gioia di lavorare in ambito scientifico sapendo di contribuire alla salute pubblica, che è una gioia immensa. Sapere che quello che tu farai, piccolo così o grande così, non ha importanza, perché poi là c'è anche fortuna, insomma, ci sono poi tutta una serie di fattori che entrano nell'algoritmo, però sapere che tu fai qualcosa oggi che domani, dopodomani o fra 5 anni potrà servire a preservare o tutelare la salute pubblica è una gioia straordinaria. Io, se volete, vi parlo di questo, però insomma io veramente volevo parlare di altro, posso? Così siete i primi, guardate che è una cosa difficile, siete i primi a sentire la dottoressa Capua che parla di amore. Che non è che capita tanto spesso, cioè non è che io vado in giro a parlare d'amore così. Allora, perché? Perché a me questo film mi ha fatto partire una serie, mi ha fatto aprire una serie di file, e io vorrei tanto che però il professor Curi, che mi conosce, si è ficcato là in piccionaia, perché lui sa che io adesso porrò degli interrogativi e sa che io pretenderò da lui almeno delle risposte così, da grande filosofo e soprattutto da persona che ragiona con una ampiezza straordinaria. Quindi, professor Curi, o scendi o ti lancio il microfono, o salgo io se vuoi e calo il microfono. Decidi tu, io comincio a parlare, tanto tu a cena hai detto che le cose te le ricordi, quindi, allora... Allora, questo film, allora, Sì, sì, di amore. Mo vi parlo di amore. Però è una cosa complicata, perché allora parla di... Allora, ipotizza come un'intelligenza artificiale possa sostituirsi a un amore vero, di fatto. E quindi osa questo pensiero. Allora, a me mi vengono una serie di pensieri. Allora, rispetto alla felicità, vi dico che gli antidepressivi di fatto esistono. E gli antidepressivi in inglese si chiamano happy tablets. Quindi non è poi così nel futuro, nel futuro al quale noi non possiamo neanche immaginare di arrivare, che un domani si possa arrivare a questo. Cioè, voglio dire, il fatto che oggi esistano dei farmaci che di fatto riescono a trasformare una persona triste in una persona felice, già mi pare un passo avanti notevole nel campo della scienza e della felicità delle persone che non stanno tanto bene. Però qua si parla di tecnologia, si parla di come la tecnologia possa sostituirsi, quindi è quasi una sostituzione dell'anima, è una sostituzione di quello che ognuno di noi ha dentro, non è qualche cosa di chimico che si può manovrare, è una sostituzione vibrante della persona. Allora, che cosa mi ha colpito di questo film? Allora, innanzitutto mi ha colpito il fatto che questa intelligenza artificiale a un certo punto impara da sola, e che questo già si fa, cioè voi siete consapevoli che ci sono tantissime forme di intelligenza artificiale, magari non proprio così intelligenti, però insomma, che imparano, no? Quindi c'è questi che fanno i runner, che vanno e che si misurano i battiti, e quello ti dice: oh, guarda che tu oggi sei andato più svelto, sei andato più lento, ti dà un feedback su quella che è stata la tua performance, lui impara ogni volta, no? Quindi il fatto che noi possiamo avere un interlocutore che non è vivo e che impara esiste, così come esistono i robot che hanno sensibilità tattile, perché se uno deve mettere una protesi a una persona perché gli manca un braccio, che può solo prendere il bicchiere, per carità, è già utile, ma al momento in cui la protesi ha sensibilità tattile, almeno se quello è distratto lo evita di metterla nel forno, no? Dico per dire, ecco. E quindi esistono già questi sistemi di intelligenza artificiale. E questo sistema di intelligenza artificiale impara diventando di fatto complementare al nostro protagonista, perché lei si... come se avvolgesse ogni suo desiderio, perché lei poi dopo si studia tutti i libri, si legge le sue email, entra nella sua testa e diventa la femmina che lui avrebbe desiderato, o che lui in quel momento ancora non desidera, ma che magari avrebbe voluto invece della moglie. E quindi il fatto che un essere umano possa innamorarsi di un essere inanimato prodotto da un algoritmo, e che però è vivo, insomma, fra virgolette, perché impara, è già qualche cosa che per noi è difficile da accettare. Però mi viene da fare un paragone, e il paragone è questo. Il protagonista scrive lettere d'amore per gli altri, che già, se permettete, è già di suo una stortura, perché il momento in cui io per manifestare il mio affetto nei confronti di mio marito, di mio figlio, di mio nonno, devo prendere lui e dirgli: scusa, mi scrivi una lettera perché io non c'ho tempo, anche questa è una, se volete, stortura dell'affettività e dell'amore. E quindi sono due storture, secondo me, diverse, ma non a caso lui faceva questo tipo di lavoro. C'è poi il concetto di innamorarsi di una voce. In realtà quella non è una voce, quella è una mente, perché non è solo una voce. Cioè Scarlett Johansson certo c'ha una bella voce, poi espressiva, tutto quello che volete, ma lì c'è una mente dietro. E allora chiedo a voi, quando si ama una persona per tutta la vita, e quindi la persona cambia nel tempo, non è sempre uguale, non è sempre giovane, non è sempre brillante, ha dei momenti di alti e bassi, invecchia, si ammala, eccetera, eccetera. In realtà di che cos'è che ci si innamora? Ci si innamora della mente, ci si innamora e il modo perché la mente si esprima è attraverso la voce e attraverso la scrittura. Secondo me poi pone un altro tema che secondo me è molto importante, e che è quello di amare più persone. Allora, il sistema operativo Samantha, che cosa fa? Samantha introduce il concetto che è possibile amare 6.412 persone contemporaneamente, quando la nostra concezione di amore invece è: io amo te, tu ami me e tu sei mio e io sono tuo, quando in realtà sappiamo tutti che poi non è così, non è proprio così. Cioè nella vita si possono amare più persone contemporaneamente in modo diverso, ci si può innamorare persone che conosci per caso e seguire, perché magari ti presentano delle idee, perché magari hanno una sensibilità diversa dalla tua, perché magari hanno una forte leadership, perché accendono delle passioni, e non intendo l'amore solo l'amore carnale, parlo di amore in senso lato. E Samantha cosa fa? Samantha, essendo un sistema operativo capace di processare tantissime informazioni contemporaneamente, che cosa fa? Impara da tantissime persone, e imparando da tantissime persone si plasma allo stesso tempo in maniera complementare agli altri sistemi operativi o le altre persone. Quindi introduce un concetto, se volete, devastante per il nostro povero protagonista, e che è quello: io ti amo e nulla, e quello che ti sto per dire non cambia. Infatti vedo un sacco di gente che mi dice così, quindi se fate così con la testa siete d'accordo. No, io ti amo e nulla cambierà l'amore che io ho per te, però scusa, ma io amo anche lui, o io amo anche lei. E introduce questo concetto che secondo me si scontra in maniera molto forte con la natura dell'essere umano, in particolare, aggiungo, in questo caso, maschio. Quindi introduce, secondo me, l'importanza. E questo il film, cioè c'è un parallelismo secondo me abbastanza evidente fra la diversità che c'è fra lui e la moglie, perché la moglie, non so se ci avete fatto caso, ma lei era tutta angelica, tutta sorridente, con sto faccino, acqua e sapone. Poi, come lui ha detto, scusa, ma questa è partita come una pazza, cioè, ma vi siete accorti? Allora, quindi, evidentemente c'era della tensione, e diciamo, se erano, cioè, la credine era bella matura, però la diversità lampante che c'è fra la moglie immaginata da lui, perché tant'è che la moglie dice sì, perché lui voleva che io prendessi il Prozac e che fossi la moglie tutta carina di Los Angeles, e invece io non sono così, io sono in un altro modo, e quindi io sono diversa da te, ma lui non accettava questa diversità. E poi dopo lui si trova con Samantha che gli dice, per la quale lui ha perso la testa completamente, gli dice scusa, ma io amo altre 6.000 persone, anzi no, 614, però nel frattempo che sto a parlare con te sto a parlare con altre 6.000 persone. E, e, E secondo me questa, diciamo, importanza e sottolineatura della diversità dei punti di vista all'interno di un rapporto è anche motivo di fortificazione. Infatti io permetto di, come si dice in inglese, politely disagree, quindi educatamente non sono d'accordo con il professor Pievani che dice che il protagonista ne esce sconfitto, perché secondo me il protagonista invece ne esce fortificato, perché il momento in cui lui scrive la lettera, quindi fa il suo mestiere di scrittore di lettere per gli altri, lo fa per se stesso, dicendo alla moglie: scusa, ma io sono stato un pirla, perché questo poi alla fine gli dice, e ho completamente disatteso le tue aspettative. Lui alla fine ne esce fortificato, fortificato dal fatto che si rende conto che ha sbagliato e che un rapporto con un essere umano è comunque molto più completo di un rapporto con una macchina, con una voce o anche con una mente. E quindi secondo me non esce per niente sconfitto. Aggiungo solo due cose. Una cosa che mi ha colpito del film è anche per questo amore, perché questo amore si sviluppi, il vuoto che c'è un vuoto perenne in quel film, cioè i corridoi sono vuoti, lui quando va a aprire la cassetta della posta è vuota e incontra solo quella che deve incontrare, le strade sono vuote, non c'è mai nessuno eccetto nei momenti di panico, tipo quando lui perde Samantha e che allora corre per andare a cercare di sistemare il computer. E poi c'è un'altra cosa che mi ha colpito e che è, se volete, anche una ridicolizzazione per quale motivo alcuni rapporti amorosi finiscono, perché c'è quella coppia di quei due che fanno quella che fa il film, eccetera, eccetera, che dice: noi ci siamo lasciati perché io volevo lasciare le scarpe da una parte e lui voleva che io le lasciassi dall'altra. È partita una litigata, siccome litighiamo su questa cosa da non so quanti anni, alla fine ci siamo mandati a quel paese. E quindi questo di fatto, cioè mentre da un lato il rapporto fra due persone in una coppia viene, se volete, ridicolizzato e si dice: ma guardate un po' se voi potete litigare per questo, dall'altro c'è come contrappeso l'importanza di avere una persona vicino, che è la moglie, che poi alla fine comunque viene rivalutata, e la consapevolezza che di un amore artificiale ci si può innamorare, ci si può illudere, ci si può anche convincere, secondo me, in momenti di difficoltà e di smarrimento, ma alla fine l'amore artificiale non basta, cioè non è una forma di amore che può appagare le mille sfaccettature delle aspettative che noi abbiamo nei confronti delle persone che amiamo. Con questo avrei terminato. Vi ho lasciato senza parole, però non stanno dormendo. Non stanno dormendo, però li ho completamente confusi. Li ho confuso, insomma. Grazie dottoressa Capo per il suo intervento, che mi sembra andasse da una piccola lista di piccole gioie da laboratorio per passare poi ad un amore virulento, nel senso di un artificio che sostituisce l'umano, di una voce confusa per mente, di un amore multiplo in parallelo e di un vuoto anche di spazio, che però lascia forse un orizzonte, uno spazio, uno squarcio di felicità che è data da una fortificazione che avviene quando il lavoro che si fa per altri viene applicato su di sé e sul fatto di avere una persona vicino. per amare. Solo per incidence credo che la battuta sul maschio trovi molto d'accordo il professor Tievani, certo, in seguito anche all'ultima pubblicazione che ha, di cui magari ci può dire due parole. Benissimo, grazie ancora per gli interventi. Potremmo lasciare dello spazio ora per interagire tra pubblico e relatori che abbiamo questa sera. Raccoglieremo due o tre interventi e poi cederemo nuovamente la parola ai nostri ospiti. Prego, se qualcuno vuole iniziare, vedo già, Curi mi sa che scappa. C'è in penultima fila qui sulla mia destra e poi si è prenotato anche il signore in fondo. Salve, buonasera. Io volevo fare una piccola, diciamo, domanda, insomma, o una piccola questione sul rapporto tra l'uomo come essere appunto umano, quello dotato di umanità, e il rapporto con la macchina. Cioè, non mi trovo molto d'accordo sul fatto di dire che, se ho capito bene, i due mondi, quello virtuale barra tecnologico e quello più umano, insomma quello del sentire e via discorrendo, si vadano a contatto e, come dire, che uno possa influenzare l'altro. Cioè, secondo me è più che altro quello virtuale e tecnologico che, come dire, aliena l'uomo, cioè gli toglie completamente o comunque in buona parte quello che lo contraddistingue, perché voglio dire, anche per quanto riguarda il social network, sì, ok, io ho il mio account, però quell'account non sono io, cioè resta comunque soltanto un sito, cioè voglio dire, resta comunque www.facebook.com state account di Pinco Pallino, appunto, quello che volete, cioè non sono io, resta sempre qualcosa di estraneo a me. O anche il fatto dell'amore verso una macchina, sì, ok, potrà anche essere forse qualcosa di più idilliaco, diciamo, però non è, cioè, appunto, qualcosa di estraneo, qualcosa di non reale, perché se io amo una persona, cioè io la voglio amare perché è carne e sangue esattamente come me, non perché è come la vorrei io e allora mi faccio il programmino che mi dà la voce, che pensa quello che voglio pensare anch'io, insomma. Spero di essere stato chiaro e di aver compreso bene, insomma. Grazie. C'era in ultima fila una mano alzata. Allora, l'argomento toccato apparentemente è del tutto, diciamo, inedito, no? Questo rapporto dell'uomo con Samantha, però secondo me in realtà è antichissimo, è un rapporto anzi ancestrale. Se noi tiriamo fuori Dio è la stessa cosa, è una forma di alienazione, cioè è una forma di bisogno di qualcosa che non ho. Non mi basta mia moglie mi ha deluso, gli esseri umani mi deludono, la vita mi delude e io cerco qualcos'altro. Questo qualcos'altro non lo vedo, non è reale nel senso sensibile, ma per me è più reale del mondo sensibile. A questa realtà più reale della realtà io do il nome di Dio, per esempio. Oppure oggi, che siamo in una società secolarizzata, ci alieniamo in maniera un po' più stupida, direi, a questo punto, perché almeno se mi alieno con Dio posso pensare che è un essere assoluto che ama altre 6.000 persone, ma ama 6 milioni, 6 miliardi di persone senza togliere niente nel suo amore a me. Se invece Samantha ha altri 6.000 amanti e sono deluso e devo abbandonarla perché sono tradito. E quindi è, direi, un'alienazione in qualche modo di serie B, questa che il film ci propone. ma che è forse l'alienazione a cui siamo costretti noi oggi nella società del disincanto, in cui non potendo più credere negli dèi siamo costretti a credere in dèi minori che sono le macchine. Grazie. Potrebbe essere questo un po' il tema, secondo me. Grazie, possiamo raccogliere un altro intervento se qualcuno desidera. Ah, ecco. Io volevo, si sente, volevo che si potesse in qualche modo chiarire quali sono i confini, se confini ci possono essere, tra il piacere e l'appagamento spirituale. Cioè questo dilemma antichissimo tra corpo e psiche, no? Perché non sta a monte della tematica che è stata dibattuta. Io posso dire che non so rispondere a nessuna delle tre domande, grazie. Se volete vi parlo di Ebola, ma di questo no. Non vale così. Pensavo che sull'appagamento spirituale invece tu potessi. No, anch'io posso solo sfiorare due risposte, perché secondo me la seconda è un'ottima risposta alla prima domanda e io mi trovo molto in sintonia con il secondo amico che è intervenuto e avrei risposto in modo simile, nel senso com'è che uomo e macchina coevolvono, non è possibile, in realtà è un'alienazione. Io provocatoriamente direi quello che è stato detto, è un'alienazione antichissima questa. Chi studia l'evoluzione sa che se c'è qualcosa che caratterizza, che rende Homo sapiens una specie non eccezionale, semplicemente diversa dalle altre, che hanno vissuto insieme con lei peraltro, perché ci sono stati molti modi di essere umani fino a tempi molto recenti, questo la scienza ce l'ha insegnato di recente, è che Homo sapiens ha sempre cercato qualcosa d'altro. Come ha detto una volta Luigi Luca Cavalli Sforza, un grande genetista italiano, noi siamo quelli che abbiamo sempre cercato di guardare cosa c'era dall'altra parte della collina. E guardare cosa c'era dall'altra parte vuol dire cercare altro, vuol dire modificare l'ambiente, vuol dire costruire una nicchia ecologica che poi retroagisce su di noi. Vuol dire costruire queste protesi di cui io parlavo, che in fondo, voglio dire, anche queste sono più che millenarie. Noi da migliaia di anni modifichiamo le specie attorno a noi, le selezioniamo artificialmente, le modifichiamo, e questa è una storia che oggi è diventata naturale, per questo io mettevo in discussione questa antica dicotomia tra che cosa è naturale e che cosa è artificiale. E secondo me anche nel web, anche in queste nuove arene, in queste nuove piazze dove noi ci confrontiamo, non emergono realmente nuovi, appunto, il postumano, nuovi modi di essere umani. Lì mettiamo in gioco delle vecchie storie umane. Noi, gli etologi ce lo dicono ormai fino alla noia, noi abbiamo ereditato una natura ambivalente, non siamo né scimmie assassine né scimmie solidali e cooperative per natura, siamo un impasto di contraddizioni, di ambivalenze. Questo vuol dire che poi siamo anche responsabili delle decisioni, delle azioni che facciamo, e non dobbiamo certo usare la natura come alibi. Ma web è un contesto in cui tu vedi radicalizzata questa ambivalenza, non c'è nulla di nuovo da questo punto di vista. Quello che è nuovo è le modalità con cui si esprimono, e quello che è imprevedibile è quello che succederà in futuro. Perché non sono, rilancio su rispetto alla prima domanda, quell'account non sono io, quella è un'alienazione di me. Tutto questo argomento sarebbe valido se io avessi una definizione del mio io come un'essenza, come un tutto definito, per cui posso stabilire con certezza che quello non sono io. Però è questo che secondo me è difficile da fare. Se tu hai deciso di fare quell'account, di comunicare in quel modo, c'è una parte del tuo io che è lì e che si manifesta lì e che interagisce con gli altri in un modo particolare, quindi è anche quello una parte sfrangiata, se vuoi, del tuo io, del nostro io in quel contesto. La sfida, secondo me, interessante è capire come questa storia poi ci può modificare. Per questo il film, secondo me, è bello, perché, ma io ho l'occhio sempre evolutivo, rispetto dall'inizio alla fine succedono delle cose, c'è un'evoluzione da tutte e due le parti, e questo è, secondo me, bello, interessante. Grazie, c'è un altro intervento qui dalla prima fila. Semplicemente volevo fare una domanda a cui l'ultimo intervento del professor Pievani ha in parte risposto, cioè la questione della la definizione di felicità, no? La felicità non è solo appagamento con un beni materiali o un amore corrisposto, ma è anche e credo soprattutto il momento creativo dell'artista, dello scienziato, Archimede che esce dalla vasca gridando Euroca, no? Non è un aspetto che è stato sufficientemente toccato, mi sembra, questa sera, però se potete dire qualcosa, grazie. Qui sulla mia destra c'è la signora. Grazie, volevo solo fare una domanda. Se, visto che tutti e due i protagonisti del film, sia il sistema operativo che l'uomo, evolvono e cambiano, se nella realtà poi il cambiamento è sfasato, è squilibrato, nel senso che l'evoluzione umana non corre in parallelo con quella virtuale o tecnologica, visto che anche se adesso andiamo a esplorare mondi diversi o qualche cosa al di fuori di noi, saremo sempre più costretti a mandare dei robot, quindi degli oggetti non umani. Grazie. Allora, rispetto Scusi, forse. C'era un altro, ecco, un ultimo intervento che raccogliamo, poi le cediamo la parola. La mia domanda è abbastanza secca. Volevo chiedere al professor Pievani se il virtuale fa parte dell'evoluzione. Allora, io brevemente, essendo stato chiamato in causa Archimede, sul tema della felicità, e sono perfettamente d'accordo, la creatività genera felicità. Devo dire che rispetto a quello che è stato detto all'inizio dell'articolo pubblicato su PNAS, quindi che è possibile definire un algoritmo per misurare la felicità o per prevedere la felicità, che quindi è il delta fra le aspettative e la ricompensa, io su questo non sono molto d'accordo, perché soprattutto nella creatività dello scienziato c'è l'effetto sorpresa e c'è l'effetto inatteso e c'è l'effetto di osservare un fenomeno che non è quello che tu avevi immaginato, che però evidentemente se lo osservi un motivo c'è, e mettere questo fenomeno nella giusta prospettiva rispetto a quello che era il tuo ragionamento. Infatti, una cosa che io, uno dei miei mantra in laboratorio è quello che i dati, insomma c'è qualcuno che magari li ritocca, no? Che magari non viene proprio guai. I dati non si devono ritoccare mai. Perché? Perché il motivo per cui quel dato o quel numero è uscito così com'è, c'è. Il motivo c'è. Tu non lo conosci, ma un motivo c'è di sicuro. E quindi attraverso, poi l'esperimento può essere ripetuto se le cose non ti tornano, eccetera, eccetera, ma se un dato che era inatteso viene confermato e riconfermato e riconfermato, un motivo c'è. E a quel punto, secondo me, la mente creativa dello scienziato si esprime ancora di più, perché un conto è avere un'idea con la lampadina e lavorare per dimostrare quell'idea, che è qualcosa di molto gratificante, ma un conto è dover rifare un ragionamento sulla base di un ragionamento che tu avevi già fatto, che in realtà non è quello che tu ti aspettavi e che però può avere poi delle ricadute ancora più straordinarie di quelle che tu avevi in mente. E quindi tutto questo per dire che nella vita dello scienziato, oltre che alla creatività, cioè a me per esempio mi si accendono proprio le lampadine, cioè io ho delle specie di visioni ogni tanto, quando che poi non necessariamente arrivano dopo un ragionamento che uno ci pensa, è un po' come le parole crociate. Se uno si punta sulle parole crociate non ti vengono, se le metti da parte e poi ci ripensi, ping, la parola ti viene. Ecco, io trovo che è molto simile. Se uno si incarta sullo stesso problema, non riesce a venirne fuori, invece lo metti da parte e poi, perlomeno a me succede così, sarò anche un po' mezza squilibrata, ma bing, a un certo punto vedo quello che devo vedere, mi attacco a quello e costruisco in quella direzione oppure nella direzione che mi si manifesta. E questo è un momento di grande felicità e di grande gratificazione, soprattutto poi se riesci a mettere insieme i pezzi. Quando l'esperimento non ti funziona 100 volte, magari ti daresti anche una martellata, ma grossa gioia e anche grossa fatica e frustrazione. Ma sulla prima, allora, sul prossimo numero di Nature sta per uscire una scoperta bellissima, secondo me la racconto in un secondo, in un minuto, perché a Java, nel sito di Trinil, hanno scoperto degli oggetti simbolici con una datazione pazzesca, no? 540.000 anni, sono 400.000 anni più vecchi dell'oggetto simbolico mai scoperto fino adesso. Quindi è una mezza rivoluzione, perché bisogna cambiare tutti i modelli, ma vabbè. Questa è una popolazione di Homo erectus addirittura, quindi una popolazione molto molto arcaica, abitavano in riva a un fiume, e cosa hanno imparato a fare? Hanno imparato, vabbè, una tecnica particolare per aprire queste conchiglie di acqua dolce, di bivalvi d'acqua dolce, con un oggetto appuntito per cui tac, fai scattare la serratura e le apri, e puoi mangiare la polpa senza rompere il guscio. Poi però, questi non si, a proposito dell'inventiva e del fatto che noi siamo quelli che poi non si accontentano, fanno un secondo passo, imparano a usare i gusci come strumenti per tagliare. Allora vedi che imparano a, li limano un pochino e li usano come lame per tagliare. Ma non basta ancora, perché poi su queste lame, con uno sforzo intenzionale, quindi con una perizia, una destrezza tanto notevole, si mettono a disegnare dei motivi geometrici regolari, a zigzag, delle linee intrecciate, tutto molto regolare. Ed è considerato, verrà considerato il primo oggetto di caratteristica simbolica, cioè questa azione di incidere un motivo regolare è considerata sufficiente per ritenerlo un oggetto simbolico. Per me lì ci siamo noi, no? Quelli siamo noi, quella è la mente tipicamente umana. Non basta riuscire a mangiarle, devi anche usarle come strumento, ma non basta ancora, le usi anche come opera d'arte, poi ci metti sopra dei pigmenti gialli e rossi, le buchi, te le metti intorno e diventano una collana bella. Ecco, quello è quello che succede quando noi cominciamo a diventare umani, e siamo ancora lì. Siamo ancora lì nell'utilizzo degli strumenti, nel fatto di andare oltre, di vedere un significato simbolico nelle cose, nel proiettare sugli oggetti una figura che per noi è significativa, che non serve a niente per la sopravvivenza, perché avere una conchiglia con un bel disegno non ti permette di sopravvivere meglio, ma noi siamo quella cosa lì, che facciamo delle cose che non servono per la sopravvivenza, ma che hanno appunto un significato simbolico. Sulla seconda sono assolutamente d'accordo, ho dimenticato di dirlo prima, ma senz'altro il grande tema è quello del differenziale, delle velocità, dell'evoluzione biologica di quella tecnologica, perché sono incommensurabili. L'evoluzione biologica ha dei tempi, la nostra almeno, molto lenti, i virus invece sono molto più veloci, ma la nostra sono 1000 volte più veloci per la precisione, ma la nostra è molto lenta, e l'ambiente sta cambiando attorno a noi con una velocità che è incomparabilmente, è proprio su un ordine di grandezza diverso, e quindi questa è una forbice che si sta allargando sempre di più, questo è vero. E sull'ultima domanda, velocissimamente, sì, penso nel mio discorso di aver in qualche modo già detto che se il virtuale è un'estensione del reale, di una nuova manifestazione del reale, l'evoluzione, che è la storia delle trasformazioni materiali, anche della nostra cultura materiale, io provocatoriamente dico che il virtuale è cultura materiale, anche se in realtà è virtuale, nel senso che è un altro modo di procedere della nostra evoluzione culturale, che non è affatto, la nostra evoluzione non è finita, anche se sui giornali ha sempre un grande effetto, fa sempre una gran moda, anche su Repubblica qualche mese fa di nuovo paginoni, l'evoluzione è finita, fine dell'evoluzione, piace un sacco questa cosa, in realtà l'evoluzione continua con altri mezzi, con nuove modalità diverse da quelle di prima, ma è pur sempre una storia continuativa, affascinante, bellissima del nostro cambiamento, appunto da 540.000 anni fa, da quella conchiglia a Samantha Cristoforetti, che riesce in 6 ore ad andare sulla stazione orbitante. Grazie nuovamente, ringrazio anche quanti hanno partecipato a questo novembre filosofico, in particolare nomino alcuni qui presenti, Don Marco Sanavio, Arianna Prevedello dell'Ufficio di Comunicazione Sociale della Diocesi di Padova e i tecnici di sala del Multisala Pio X che ci hanno sempre supportato con attenzione e cura. Ringrazio anche Marzia Banci dell'Associazione Filosofia di Vita per la vicinanza e per la stretta collaborazione che si è instaurata nel corso degli anni, e a titolo cursorio anche gli sponsor che sono il Comune di Padova, che sono l'APS Advertising, Y-40 e il Baccaro Padovano, che hanno supportato fattivamente questo ciclo di conferenze e di rassegna filmica. Non mi resta che augurarvi una buona serata, una buona notte per l'oggi e un arrivederci al novembre 2015. Buona serata.